profumo per l'inverno. Posava il suo tappeto la neve. Nel 56 le sue mani erano nude. Quando avevo poco più di qualche anno, avevo le orecchie grandi come Dumbo. Ricordo, mi chiamavano Ciccio Bombo. Già da piccolo vivevo in un altro mondo. Nei tuoi occhi vedevo le stelle, nelle tue tasche mettevo le più belle. Madre mi portava sempre in braccio. Quando rideva ero contento come un pazzo. La felicità non conta quando sei felice, il tempo passa, corre come una lepre, ti forma, pianta le radici. Tra le nuvole dolci come noci pioveva, sole anche la notte, un grembiule con un fiocco, le mani sempre sporche, scarpe troppo strette per la prima comunione, una giacca troppo larga per metterci tutto il mio cuore. Nei tuoi occhi vedevo le stelle, nelle tue tasche mettevo le più belle. Madre portava sempre sorriso, diceva: figlio mio, tu sei il mio paradiso. Abbandonata da un mezzo uomo, un mezzo stinco, ma i miei occhi mi ha sempre detto che lui era un santo. Sulle scale che portavano all'inferno, di lui ho visto solo una foto e poi un vuoto eterno. Lei partiva, ma era sempre al mio fianco. La mattina, la sera e anche a pranzo. Lavorava come domestica da una signora, ma per me lei è sempre stata la mia regina. La domenica arrivava come una befana e distribuiva ai miei compagni un po' di fortuna, a chi aveva meno di quello che io amavo. Ed io di lei ero fiero e con lei distribuivo. Nei tuoi occhi vedevo le stelle, nelle tue tasche mettevo le più belle. Madre mi portava sempre al mare. a pescare la luce del sole. Un giorno, quando gli alberi rifioriranno, respirerò il tuo profumo tutto l'anno. Tu che mi hai dato vita, dato il mondo, tu che mi hai abbracciato più di un figlio. Non lacrime, ma canti per te, donna, che hai abortito l'odio e la vita hai scritto con la tua penna. La radio sempre accesa, amavi compagnia, tu madre, mio coraggio, tu madre mia, nei tuoi occhi vedo ancora le stelle, nelle tue tasche metterò le più belle. Madre, portami sempre nel tuo grembo, tu che tanto hai amato questo mondo, nei tuoi occhi vedo ancora le stelle, nelle tue tasche metterò le più belle. Madre, portami sempre nel tuo grembo, tu che tanto hai amato questo mondo.